Mi rivolgo, come mamma di una bambina di 5 anni, a tutti voi genitori. Noi dobbiamo assumerci la responsabilità di garantire ai nostri figli un'educazione ed una preparazione di qualità, perché essi dovranno vedersela con un mercato dei talenti senza frontiere, dovranno confrontarsi con la concorrenza intellettuale degli immigrati di seconda generazione, fortemente motivati a salire nella scala sociale. I nostri figli, rispetto a noi, avranno sfide molto più difficili. Noi dobbiamo dare loro una scuola esigente e selettiva, che consenta loro di affrontare la competizione con le carte migliori.